dimmi, cos'è che hai schiacciato? Rec. Play. No. Ti ho detto il pulsante home. Quello rosso e verde con le striature blu. Lo trovi? È dietro, devi girare il telecomando. È presente dove c'è lo sportellino delle batterie. Sotto c'è il pulsante home. Ma la sta lagata un attimo. Sì, allora, l'hai girato il La minestra già l'è cotta, fuori piove, tira vento. Vivo solo con la gatta, vivo solo e son contento. Non mi son neanche lavato, non ho fatto il bucato. Son cinefilo d'assalto, un bel film non chiedo altro. Qualche birra, patatine, telecomandi in posizione. Dalla morte interruzione, divano rutto e ciabattine. Me lo merito, lo sento, son cinefilo e pretendo. Un bel film e son contento, un bel film tipo 300. Mamma che sballo, mamma che bello. Gestisco tutto col polpastrello. Guarda che chicca è tutta mia. Evviva, evviva la tecnologia. Nel salottino di casa mia. Evviva, evviva la tecnologia. Il cavo è collegato, ora accendo il carro armato. Un impianto esagerato, sei stipendi m'è costato. Ogni cassa al posto giusto, ogni cosa al giusto posto. Solo al buio c'è più gusto, sono proprio un tipo tosto. Inserisco il DVD e sistemo le tendine. Il display LCD mi lampeggina paroline. Ma lo screen rimane spento e mi lascia un po' sgomento. Poi sentenza impertinente, tu segnale sente. Ne esco pazzo, gestisco tutto, ma con il cazzo. Guarda che pacco lampeggia la spia, quanti problemi la tecnologia. Nel salottino di casa mia, quanti problemi la Ma no, non va? Sì, l'ho masterizzato. Ma l'hai masterizzato con cosa? Con l'aggiornamento, meno R. No, meno R va bene. Antipirata, sì. Sì, ottimo. Server. Sul server? Adesso però devi controllare. Peer to peer, passa un attimo, sei un super video di V. Ma il super video è di V? Sul cavo SCART. Super video ha bisogno di una spina particolare. Scaricato Linux, Windows. Va un caso. AV1, 2, AV-Kippo. Serve la spina. AV-Dolby. Si chiama spinella autobloccante. E devi collegarla dietro. La fibra ottica. No, fibra ottica. Spinella autobloccante. Di Current. Current Wind. No, quello lì è per registrare. Te devi guardare dietro al televisore. DVD? Se hai la spinella autobloccante la funicolare sì, dal server, la spinella autobloccante funicolare. Provo sconforto, cercato amore. Schiaccio bottoni, niente da fare. Sfondo e rimonto tutto il salotto. Ma poi mi arrendo, è tutto rotto. Stacco la spina, guardo la gatta. Si sente ma non si vede niente. Ma è pronto? Malazzo. Che sei stato tu ad ucciderlo? No, non lo so. Io...